ragazzi, mi sono fumato il radio. Signore e signori, è con immenso piacere e un pizzico di ardire che annunciamo l'inizio delle trasmissioni. Radio Catrame 19, la radio inusuale. Cala la musica dei Milaven sulla puntata numero 26 di Parla Come Scrivi. Stasera siamo molto professionali. Il titolo della puntata è L'avventuriero alla COP, perché ce n'è bisogno. Primo protagonista, commessa frustrata. Siamo nel vagonaccio, io sono Strelnik, accanto a me c'è il sociologo Calzolai, accanto a lui c'è l'altro sociologo Sandrini, accanto a lui c'è Liv, accanto a lui c'è... Non so un cazzo. Sociologa? Io ho detto Strelnik, Liv, quindi caratterizza... Donna Liv. Donna Liv. Sociologa Liv. Accanto a Liv sociologa? C'è... Anche. Una psicologa. La storica dell'arte. No, è un facologa. La storica dell'arte. Un scellerone. Storica dell'arte. No, è una storica dell'arte. Comunque. Esistono queste persone allora, dai. Esisto. Esiste la storica figo, la storica dell'arte. E comunque siamo partiti, sono le 22:19 sul nostro computer. Voi ci state ascoltando in diretta o nell'eternità del podcast, chi lo sa. Il titolo ve lo abbiamo già detto, è... L'avventuriero alla coppa, la felice Crasi, mamma mia, parole ragazzi, Crasi, fusione di due testi alla fine che abbiamo stasera, che grazie a due ospiti del vagonaccio, a due persone che stanno nel vagonaccio stasera, loro ci hanno proposto, e si tratta di un libro e di un blog, quindi li mischiamo in questa notte... Anzi, seminotte affastellata o ammastellata. È la notte della Seconda Repubblica questa. Forse potrebbe essere la notte della Seconda Repubblica. E noi dobbiamo fare una cosa importante, perché questa è la notte che passerà la storia. Non possiamo mica stare qui a fare gli stupidi. Dobbiamo fare qualcosa anche noi di storico, di politicamente rilevante. Esatto. Cosa facciamo di politicamente rilevante? Io intanto prendo una birra, che è il pronome importante, cioè ti dà così la svuotiamo e ci facciamo una moda. Tu vai alla COP a prendere la birra. No, ce l'ho già qui, non so dove è stata comprata questa. Ah, perché da Tonino. Facciamo che è stata comprata alla COP. Alla COP. E facciamo che si va a infilare alla COP. A infilare? Alla COP. Domani verso le 6 si va alla COP. Chi si incontra? Una commessa. Sarà contenta o gli gireranno? Sono sempre, guarda, le commesse della COP sono tutte quante molto gentili, perché sono... La COP sei tu, quindi anche lei è molto contenta di essere social. Quindi se sono cazzato io, incazzato anche lei. Di partecipa alla vita. Incazza. In fondo è una piccola azionista, quindi è contenta. Più pane vende, più è contenta la commessa COP. Sì, ma... Sì. Vabbè. Hai visto che è carina la pubblicità della Coppa Nuova, quella che fa sulla... La non si può donare alla Coppa, si può dare alla Coppa, ecco. Si è già data da tanti, diamo anche alla Coppa. A questo punto, per partire con le due cose che vi dicevamo, facciamo fare da traguardo, anzi da partenza, da scatto virtuale a una canzone. Loro sono gli Stinking Polecats, che al dispetto del nome vengono da Piacenza, e noi vi facciamo sentire una musichina loro che si chiama I Feel Confused. Mi sento un po' confuso. Vediamo di dissipare le nebbie in questa puntata numero 26 di Parla Come Scrivi. Vai, Hans è tornato, poi vi parleremo di che cosa ha fatto per farsi perdonarti. We'll be right back. Occorre stabilire questo assioma. L'avventura non esiste. E nella fantasia di chi la insegue, e non appena si riesce a toccarla con un dito, svanisce per fare capolino da tutt'altra parte, sotto una diversa forma ai limiti dell'immaginazione. La guerra poteva essere considerata un'avventura. Sappiamo tutti, senza bisogno di fare appello alle risorse delle vite immaginarie, che cosa ha significato quando ci siamo stati dentro fino al collo. Ma su questo punto torneremo più avanti. Per ora ci basti sapere che vivere l'avventura è pericoloso, anche a grandi linee, giacché quel che se ne ricava non è altro, di solito, che una somma più o meno consistente di delusioni e rimpianti. Sono 3 mesi che ti dico che te lo sei inventato tutta questa avventura che ce l'hai in testa. Sogno, ma scusate, ma perché proprio questo brano? Cioè, chi è che fa gli autori. Si chiama Joy sono gli autori che hanno del prete. Sì. Gli autori hanno scelto questa cosa perché è interessante, è riflessiva. Molti di noi pensano. Sapete che gli autori ci trattano come delle cavie umane, no? Sì. No, quindi, come delle capre umane. Delle capre umane. Capre da guerra. Le capre da guerra. E ci trattano perché secondo loro noi stiamo chiusi in questo cubicolo e gli argomenti che loro ci propongono sembrano staccati dalle nostre vite personali, ma invece sono intrecciatissimi. Non si parla di crisi energetica, noi sembra qui, vabbè, si parla della crisi energetica, invece no, ci siamo dentro fino a... Stiamo recitando, siamo in realtà ora o dopo. Comunque questa cosa dell'avventura che sparisce proprio nel momento. Ti provoca un po' di frustrazione questa cosa. Frustrazione. Non lo so, io non lo so dire frustrazione. Frustrazione. Frustrazione o frustrazione? No. Oggi dici sempre frustami te. Frustami te. Frustami te. Oppure senti, lancio un appello. Cioè, avete visto oggi quella foto fantastica del New York Times? No, New York Times era non mi ricordo. Daily Mail. Di una coppia di gothic, giovani gothic, e lui portava al guinzaglio lei una bella catenona di quelle massicce metallarone al collo e il loro amore era così, lei è contenta di essere portata al guinzaglio. Sono saliti nell'autobus, ma gli ha detto, cosa abbastanza vecchia però, cioè. Gli ha detto l'autista, anche autista londinese puntiglioso, no, voi non entrate perché niente cani, niente persone strane. Tu stai un guinzaglio come cane, insomma, sei impuntato, non gli ha fatti salire. Perché non riusciva a staccare, eccetera, eccetera. Ma c'era, lui ha denunciato la compagnia dei trasporti, ma che volete da me? Lei dice, oh, ma io sono contenta di essere portata così. C'è questo senso di frustrazione. No, quella lì non gli somiglia a un cane. È brutta, però, scusate, guarda, ma... un cane no. Lui è brutta qui davanti questa cosa. Guardate che facce, ma vi sembrano contenti? Lui è piuttosto brutto. Lui è il più triste di tutti e due, comunque. Lei è giovane e inconsapevole, secondo me. Molto giovane. Abbiamo davanti una foto davvero brutta, a differenza di ma foto. I wanna be your dog, il hip hop, no? Ci voleva questo. Anche la, peggio. Come musica, porca. Invece, prima, dei fans, Strelnik, nostro caro Strelnik, ci hanno preso all'assalto, si hanno cominciato a farci foto. L'inizio fotografico, sì, fuori sì. Non mi sono mai aspettata, no? Questa... Io sono anche incazzata, frustratissima. Ma poi è un fotografo di quelli molto hype, molto cool. Cioè, bloccato, ho detto, fate diciamo, queste foto estemporanee. Secondo me era Cattelan. Ma voi sapete che. Ma secondo me poi ci ricattano. Cioè, le pubblicano su Eva 3000. Ma chi se ne frega, ma chi se ne frega. Cioè, comunque, questo servizio di foto poi magari lo mettiamo, non si metterà mai. Però chissà, forse tra qualche annetto, quando saremo morti, si potrebbe pubblicare anche sul radio. Porca miseria, ragazzi. Allora, dopo i Feel Confused e questo bel testo che noi ci siamo avventurati con la voce di Erika di un testo di cui però non abbiamo citato la fonte. No, hai niente. Diciamo, cita. Cito Pierre McOrlan, si pronuncia così? Credo di sì. Piccolo manuale del perfetto avventuriero edito da Adelphi. E nota positiva, costa 5,50 euro. Grandi Adelphi. Questo Pierre McCoran, leggo nelle note che ci sono all'inizio del libro, è lo pseudonimo di Pierre Dumarchais, nato nel 1882 e morto nel 1970, quando sono nato io. È morto lui, non sono nato io. Ti sei reincarnato? Sì, si è reincarnato. E ora leggiamolo come se fosse la mia vita nello stato di prima. È stato bohemien e soldato, pittore e reporter, membro dell'Académie Goncourt e del Collège des Pataphysiques. Ha scritto 130 libri e 65 canzoni, molte delle quali per Juliette Gréco. Le Petit Manuel du Perfect Aventurier, scusate il francese, è apparso per la prima volta nel 1920. Quindi lui l'ha scritto quando aveva 38 anni. Quindi io quest'anno dovrei scrivere, se sono la sua reincarnazione, dovrei scrivere il piccolo manuale del perfetto avventuriero. Da che si deduce che io non sono Pierre McCormick, se sei incarnato con qualcun altro. Scusa tanto, però a questo giro fai piccolo manuale del perfetto avventuriero, la vendetta, oppure due, fanno diverso da questo. Sì, da. Sì. Sequel, faccio pure sequel. Un medio manuale. E vediamo di più piace a che cosa a questo giro. Si prova. Perché io sono la reincarnazione dell'editore di Pierre McCorlan. Cavoli. E l'altra volta, in quell'altra vita, Strelnik, e ci sei rimesso un casino di soldi in questo libro. Io aspettavo quasi 100 anni per dirti sta cosa, Strelnik. E tu ce la rendimi soldi. Sono venuto a ricercarti nella vita successiva e non ti dico nulla. Io li voglio stasera, li voglio. Ma eravate una cooperativa sociale per la cosa culturale, la sviluppo culturale, dai, non è che la diffusione della libera cultura, vedi che poi si rifà le Creative Commons. Cioè, è il concetto di cooperativa. Livo mi fa incazzare stasera, mi fa incazzare. Perché non ti voglio dire chi eri in quell'altra vita precedente. Chi ero? Vabbè, lasciamo stare. Dimmelo. Cioè, tu me la fate di hot e di crude. Il direttore della Coppa, chi ero? No. Chi ero? Allora, mentre si dirime questa moglie. Cosa... Ma è stato un matrimonio felice. Il nostro Hans ci mette, you're not cool. No, ma è non sei ganso, dei retarded. No. Sempre italiani, a dispetto del nome. Poi dice che... Ascoltatela! Right now, when you send me the man, what have you been? Do you want to have your faith, let me begin? But if there's a goal, from a place of beyond, it's the end of the road. Stinking Polkets, perché è rientrato anche Hans con tutte le sue tare alcoliche, quindi non ci ha avvertito che la canzone era appena terminata. You're Not Cool dei Voga, come si chiama la gente di Voghera? Non lo so, Vogheresi. Casalinghe dei Retarded di Voghera, anche se loro MySpace è scritto Voghera Roma, quindi sarà un po' misto. E comunque vi dicevamo che Hans ci ha avvertito che era rientrata l'altra canzone. Adesso, in attesa che invece ci rimetta uno sfondo, una musica di sfondo adatta all'occasione, noi continuiamo a parlare di avventurieri alla coppia. Forse ci ha fatto il gancio buono, forse sì, io direi di sì. Traffico, ci si muove per andare anche al supermercato, a tentare l'avventura nel supermercato. Perché chi si inoltra in un supermercato fa un'avventura o non fa un'avventura? E chi incontra? Chi incontra? Incontra alla fine di questo lungo percorso. Quindi il supermercato è costretto a lavorarci. A lavorarci, e quelli sì che sono. Allora, o sei della tipologia, quel bel maschione con le t-shirt, e poi le t-shirt tutto pompato, i muscoli, quelli che un eccetera. Po' mi assomigliano, uguale, solo che sono un pochettino più basso di te, sicuramente te non ridere troppo, oppure quindi questi bei maschioni così, oppure c'hai tutta questa schiera di commesse, questa schiera. Scusa, di maschione dove la coppa? No, non alla Coop, si presume che la Coop magari sta in un altro centro commerciale, quindi trovi, che ne so, questi ragazzoni che stanno da intimissimi, da motivi, questi posti qua con la musica uns, e li trovi tutti quanti stretch a prendere le loro cose. No, la Coop invece no, cioè le commesse che si fanno anche, insomma, abbastanza il culo, diciamo. Si rompono le palle, sono molto carine, sono, cioè, molto non carine, possiamo gentili, usare parolacce in radio, però si rompono le palle. Perché ho fatto anch'io per tanti anni la commessa, non è che in effetti ti rompono abbastanza le palle, insomma. Anch'io c'avevo il mio breviaretto, perché vendevo cellulari, ai tempi era un po' complicato. Ve lo ricordate voi lo Startac, quello della Motorola, quello che si apriva, così famosissimo, era il primo piccolino, tutti quanti lo volevano, sai, con tanta una batteria enorme sopra, a conchiglia, sì. Quindi la gente mi dai lo Star Trek, uno mi fece, no, dai. Anzi, questo per essere citazione, abbiamo le virgolette, voleva lo Star Trek con l'oculare. Che te lo metto nel. Sarebbe l'auricolare, però tu sei un po' inciampato con l'oculare, quindi immagino che ti metti questa cuffia nell'occhio o in qualche nell'oculo. Nell'oculo. A proposito di cose carine, non cellulari. Commessa frustrata, nome difficilissimo. Punto. io blog.com, il sito blog di Commessa Frustata, che ci racconta frustrata, che ci racconta la sua vita alla COP. E ci sono tre personaggi, sia nel suo blog e poi in quello che è diventato il suo libro, che è lei, il suo inconscio e l'acquirente di turno, quindi quello che dice lei, quello che pensa e quello che gli dicono. Tipo, o senta lei, guardi che le scale mobili del parcheggio non funzionano. Lei pensa, mi scusi ma non è una cosa di mia competenza, non saprei come aiutarla, si rivolga alla manutenzione della galleria commerciale. Eh sì, voi dipendenti non sapete mai nulla, lo dica chiaro che non le interessa aiutarmi e non ne può fregar di meno di questo problema. Quindi. Esatto, esatto, dobbiamo morire parcheggiato nell'area dipendenti, fatti legare, scurone. Siete aperti domenica? Sì. Senta, a che ora chiudete? Alle 20. Ma così presto? Io non capisco perché, cioè non si fa come in America, aperti 24 ore su 24, cioè così uno trova tutto a qualsiasi ora e si toglie lo sfizio. Io non capisco perché non si fa come in America, niente. Porta 20 tarmi per tutti, così uno trova tutto e si toglie lo sfizio di far fuori deficienti come te. Ragazzi, io devo andare un attimo in bagno. Deve proprio? Non so, se vuoi provare ad andarci te per me. Ragazzi, questo è solo una piccola serie di cose che scrive lei, raccontando tutte le sue vicende. Ci sono anche delle chicche molto carine nella categoria genialate, ma tipo a freddo, così. Mi viene il prosciutto che non serve di maiale. Oppure mi può togliere il grasso della mortadella? Mi scusi, ma nella pasta al sugo di pesce c'è il pesce? Oppure, ma mi scusi, ma il salame felino di cosa è fatto? Felino? Felino. Si è mai chiesto come mai molti gatti non hanno la coda? Ovviamente sta per commessa frustrata. Oppure ancora... vediamo un po'. Vabbè, ridiciamo l'urli intanto mentre ne cerchiamo altri. Commessa frustrata. Blog.com. Leggetelo, oppure potete anche prendere il libricino che lei ha stampato e raccoglie tutte quante le sue cope. E ma il libricino l'ha stampato da sola? No, non l'ha stampato da sola, cioè non lo so. Vabbè, facciamo. L'ha stampato con una bella casa editrice che è Tempo al Libro. Tempo al Libro. Ecco, diciamo. Tempo al Libro. Okay. Si può ordinare lì, costa 8 euro. E soprattutto tutti i fondi andranno direttamente a incrementare il fondo COP. Il fondo COP? Sì, della COP, non è vero. Ovviamente. Ne sbatte il cazzo lei di andare a fare. Ma ci mancherebbe altro. La COP sei tu. No, ma io ho scoperto un altro attrezzo che non è arrivato dalle nostre parti, che siamo ancora nel sud del mondo. Siamo nel sud del mondo. Alla Coppa hanno fatto la Gigino Salvatempo. Che mi hanno raccontato, ma io non ho mai visto questo sì, male sì. Tecnologia. Il babbo, sì, sì. Il tuo babbo, infatti, sì. Me l'ha raccontato che c'ha questa penna ottica, tu fai la spesa, clan, clan, sì. E quindi sai già il prezzo delle cose che stai spendendo. E poi vai alla cassa e la commessa non te li ripassa, ma vai e paghi. Sì. Sì, però a campione a volte ti passano a campione sì, ti tagliano la mano. Non fanno neanche i conti, a campione ti taglia la mano. Taglia la mano. No, questa no, cosa questa a me tempo ansia, sta cosa del salvatempo. Cioè, ma alla fine, ma veramente vai così di fretta che devi stare tanto? Sì, ho capito, però prima di stare, magari nel supermercato non ci sta tranquillo, però invece di farsi poi un'ora di fila col carrello, sta lì fermo. Ma che bello farsi un'ora di fila dietro magari quella davanti a te che c'ha un bel culo. Vabbè, l'avevi detto nell'ultima puntata che non lo facevi non più. E siamo riusciti un'altra volta guarda io proprio. Vabbè, e piangevano tutte quante. Allora ragazzi, basta. Sandità, si ricordi pure di dire quella cosa che... quella cosa di che non si possono sposare i froci. Cosa? Sì, ho capito, una cosa alla volta, non mi fare arrabbiare di papa. Allora vi dicevo, cari fratelli e sorelle... Sandità! Mannaggia! Dite pure quella cosa che non si possono fare... Mannaggia! Adretto ci stava chi lo cagazze, cardinale Ruini, no? Ci diceva: Santità, dite pure quella cosa che non si può mettere allo sburro delle spermatozoi nella patana per fare la frutta. Una cosa alla volta, di papa. Santità. Intermezzo folle era un omaggio a Gianfranco. No, era un omaggio a Gianfranco Marziano, grande poeta contemporaneo napoletano. Volevamo fare un omaggio a lui, anche a Napoli in questo momento particolarmente triste della storia, e anche un omaggio a Ruini, che in questi giorni è nella cresta dell'onda, vero? Sì, secondo me sta iniziando a mandare dei grandissimi pizzini a tutti. Questo, Santità, questo non si fa, la sapienza non si fa, il governo non si fa, oppure al governo si fa. Piove sul bagnasco. Oh, Strelli, che mi hai letto, ti volevo dire questa cosa, tu che sei un bravo lettore, qual è la tesi manifestata dal manifesto? È che dietro a questa cosa del Sormastella, che tutto a un tratto esce fuori dalla maggioranza dopo che aveva detto che l'appoggiava dall'esterno, ci sia dietro anche, non solo, una pressatina della Chiesa che ha detto... Santità, dite pure... E ha rimesso un po' in fila i cosiddetti parlamentari cattolici. Non che sia stata l'unica, era la tesi del manifesto, non che sia stata l'unica. Quindi, però... scusami, io che sono un po' ingenua, ma che cosa si rifà la DC in pratica? C'è il tentativone. Tentativone. C'è il tentativone grosso. Grossissimo. Ma a noi ce ne frega? A noi ce ne frega. Sì, nel basta. Senso che. Cioè, che si decidano anche per noi, insomma, sì. Ragazzi. Ma la democrazia cristiana mi è sempre piaciuta. Ti è sempre piaciuta la democrazia cristiana? Sei sicuro? Stiamo registrando stasera. Cioè, questo rimane immortalato nel podcast. Guarda, Sandrin, se non ti dico una cosa, si può di tutte le bischierare che si vuole, parolacce. Ma non si può dire che ci è piaciuta la democrazia cristiana. Ma io vi devo dire che, cioè, questo piuttosto che Veltroni, io preferisco la democrazia cristiana. Ma si è detto ieri sera che votava Mastella. Sì, l'ha detto. A cena ha detto. Ma perché è un bell'uomo? Ma sembra un Playmobil, smettila. È un bell'uomo. E soprattutto... ha i capelli marron. Eccola qui, la nostra Erika, che è l'unica donna che mi segue stasera. Abbiamo affrontato un discorso ieri molto serio, cioè sul fatto che gli uomini hanno dei colori di capelli improponibili. Chi se li tinge? Chi ce li ha? Chi ce li ha? Tu non c'è. Cioè, la domanda è, perché gli uomini si tingono i capelli di colori che non esistono in natura? Oh, questa è una domanda proprio seria. Lanciamo un sondaggio, la mail la conoscete. Fare chiocciola con l'H e mezzo. Marino non si tinge. Marino è un gran bell'uomo. Marino è molto bello. E non si tinge i capelli. ecco, parlo di lui, non posso parlare. No, scusate, io ci avrei una domanda. Cioccando, posso fare una domanda? Sì. Io vorrei fare un altro sondaggio. Mm. Poiché Margherita Hack poiché Margherita Hack non si tinge i capelli e nemmeno i baffi, mangia due uova a pasto ogni giorno, era su un'intervista recente di qualche settimanale. Io vorrei fare un sondaggio rivolto esclusivamente alle donne. Sì. Le donne, tra un uomo e un uovo, cosa preferiscono? Tra un uomo e un... Un uovo. Tra un uomo e un uovo. Sono indigesti tutte e due. Brutta sta cosa. La prima cosa che mi viene in mente. Fanno male al fegato tutte e due. Fanno male al fegato. Fanno lavorare il fegato tutte e due. Fanno lavorare il fegato. Sono duri fuori ma morbidissimi dentro, come l'uovo. Qualcuno. Non li metti ritti se non li spacchi per terra. E se li lasci da soli un po' puzzano. Sì. Così è sull'impronta. Va bene, però. È vero, sono una bella grande. Tanto era tutto scritto da prima, cioè, ragazzi, non pensate che questa cosa sia. No, e soprattutto se non li consumi subito, poi ti fanno venire le malattie. Sì. E siamo scivolati nel traffico anche stasera, insomma, via. La storia dei colori di capelli è interessante perché in realtà la cosmesi pilifera femminile, cioè i parrucchieri, fanno delle cose le donne molto belle, sono arrivati a dei colori fantastici, cioè non c'è il castano ma c'è il cioccolato, color cocco bronzeo, oppure cioè il biondo cenere non esiste più, esiste che ne so l'oltremare, sì, queste cose così, cioè il colore intensi, cioè queste cose qua, e funziona, fanno bene, cioè il parrucchiere è bravissimo, ti fa delle sfumature fantastiche. Cioè, non so perché gli stessi non si possono atteggiare a uomini. C'era un parrucchiere vicino a dove stavo prima io, faceva delle, tipo, si inventava colori, no? Tipo, era orto e pantone proprio lui. Sì. Assolutamente, e aveva inventato un colore e l'aveva chiamato, cioè, era politicamente scorrettissimo. Però dava l'idea anche di giallo Nagasaki. Però secondo me era un copywriter questo mancato, questo parrucchiere. No, tipo, vabbè, giallo Nagasaki. A parte il fatto che fortunatamente adesso lo dico veramente per il benessere visivo, va molto di moda il sale e pepe. Nel senso che i parrucchieri hanno capito che se tu un uomo a 60 anni e c'hai capelli bianchi da 10, non lo puoi da un giorno all'altro boom fare ricolla di nero, perché è ridicolo. C'è i capelli corti, quindi poi le basette ti spunta il bianco, è veramente brutto. Quindi il concetto di sale e pepe maschile va molto bene, perché ti fa l'effetto George Clooney, che è proprio l'emblema del sale e pepe naturale. Ma un altro invece che ha i colori improponibili è il tizio, che non mi ricordo onestamente, che è entrato al Grande Fratello... Quello con i capelli pannocchia? Brava. Aspetta. Che è il papà di famiglia. Adesso... Come padre di famiglia? Sì, si è riprodotto? No, ma lui sta con tutta la famiglia lì, con la moglie e... Ah, ma no, credevo uno del vecchio, aspetta. Non lo so. No, quello del vecchio non lo so. Questo nuovo, vediamo nelle faccine, ha il tizio, eccolo qua, si chiama Filippo Orlando. 61 anni di Novara di Sicilia Messina, e nella foto che c'è sul sito non si vede, l'hanno fatta prima, ma c'ha tutto questa fascia, quella sopra, il pelato sopra, la ampissima, ampissima chierica, e niente, se ne è fatti di veramente color uovo sodo interno, ma cioè l'esterno dell'interno è l'uovo sodo del tuorlo, quindi che ha quel grigio stranissimo, quasi peggio di quelli di Santoro, che è stato, devo dire, insomma, inaugurato questa cosa molto... Però ha fatto anche un oso ancora peggio, si è messo sotto le telecamere di Grande Fratello, a quell'età lì, sotto le... Vabbè. Quanti anni c'ha questo signore? Ce n'ha 61, si è portato la moglie e i tre figli. Ma guarda, diciamo, statisticamente a livello economico è un buon investimento, che questi si fanno un mese, quant'è là? Sono 5 persone, qualcuno dei 5, non dico che vincerà il Grande Fratello, però almeno... qualche comparsa dei figli da fare in discoteca, quindi ci sta che fra 2-3 mesi la famiglia sarà molto molto più ricca, che sì, tipo, la famiglia serve per il sordo, c'è sempre il sordo, quindi diciamo che tutta la famiglia raccatteranno in questi 2 mesi qualche soldino, quindi perché no, magari fatto così non pagano l'affitto, mangiano a scrocco e così bella soddisfazione. Certo, però il pensiero di stare al Grande Fratello con Tom e tuo padre chiuso lì, cioè ti tagli le vele, via, su. Anche da solo. La gigantesca scritta COP, tanto per rimanere nei tag della serata. Le luci della centrale elettrica. Lui, sì, isso. Vai, Hans. Fammi i tuoi discorsi metafisici sui fori dei piercing che si richiudono sugli occhi spenti, con gli estintori sui conti correnti, coi cognomi finti. Sarà la prima volta che non andrò a votare, sarà la prima volta che non andrò a puttane. Con un alto tremendo ti ho sussurrato all'orecchio, con jour mon amour. Aprendo la finestra sopra le turbine sopra, nottambuli svelta, la gigantesca scritta con la gigantesca scritta con e Gigi c'è qui, non ci sono più, Gigi c'è qui, non ci sono più, Gigi c'è qui, non ci sono più, Gigi c'è qui, non ci sono più da un bel po'. E non ho paura, sai, degli ecomostri, dei parchimetri, dei centri commerciali, dei benzinai. E tu avevi la stigna per le tue guerre stellari. E tu avevi la stigna per le tue guerre stellari. Discorsi metafisici sui tetti di Ethernet degli anni Ottanta, sui paracadute, coi buchi di sigaretta, d'altronde è feroce settembre, come back settembre, come back settembre, come back settembre, come back settembre. I sistemi d'allarme si sono sgolati, non hanno fatto feriti. I sistemi d'allarme si sono sgolati, non ci hanno sentiti. Un distinto avventuriero passivo, ciò che ha visto se lo tiene pudicamente per sé. Non dimentichiamoci che l'avventura è nell'immaginazione di chi la vagheggia. Quando si crede di tenerla in pugno, svanisce, e allorché la si tiene in pugno, non vale una cicca. Non è niente, occorre quindi guardarsi dal raggiungere questo fine inesistente attraverso le vie normali. Un avventuriero passivo riuscirà a concepire distintamente paesi di cui conosce a malapena la collocazione geografica. Anche se ha vissuto davvero a Caracas o a Porto Alegre, non si azzarderà mai ad ambientare le gesta di un gentiluomo di ventura in quel deludente scenario. I viaggi, al pari della guerra, non valgono la pena di essere praticati. È sconsigliabile assumere un ruolo attivo in svaghi di questo genere, poiché l'autentica bellezza dell'azione finisce per essere schiacciata dagli aspetti molesti. Capito, filosofo? Filosofo. Si starà a casa, via. Il viaggio e l'avventura, dove iniziano e dove finiscono? Boh. Al pari della guerra. Ma perché fai presa sta cosa dell'avventura stasera io proprio? Che cos'è per te l'avventura? L'avventura. L'avventura dentro. Intanto partono tutti i nostri messaggi multimediali. Se volete, io approfitto per dirvi che c'è la chat, c'è il. C'è un nostro amico Paolo. Paolo. C'è Skype. Che ci scrive da chissà dove e ci dice che partirà presto. Partirà presto? Sì, si andrà in Sud America e noi lo salutiamo da Radio Catrave 19. Paolo, ciao. Ciao, buon viaggio. Buon viaggio. Buona trasvolata. Ti si impacchetta bene bene e poi speriamo tu ritorni, in qualche modo ritornerà il nostro amico Paolo. E quando si parte? Quando si parte? Dove si fa? Boh. Però questo pezzettino inizia in maniera strana. Cioè, un uomo di qualità, se ama l'avventura, non fa parola di ciò che ha visto. Uno si domanda, siamo avventurieri oppure no? Cioè, al ritorno da tutti i viaggi, cioè, si è sempre raccontato tutto quanto, oppure forse no? Lì dice l'uomo di qualità, no? Sì, è un uomo di qualità. Un uomo di qualità sa che c'è qualcosa che non può essere narrato, quindi... Ma perché non... anche cosa racconti? Io non ho mai raccontato molto dei miei piccoli viaggetti in qua e là. E tu ne hai fatti in poeti? Ne ho fatti un po' e via. Ne ho fatti diversi. Il nostro sociologo, sapete che è come si dice, è un sociologo di quelli della scuola, giornalistica della prima ondata, quella che si consuma le scarpe, quella che non sta ferma. Viaggi, si può partire davvero e arrivare in sé dove? Dove si può arrivare? Tutti voi mi guardate e vi aspettate una risposta. Ma non ve la dico, perché mi volete trarre in inganno. No. E fare confessare in radio segreti personali, viaggi interiori di cui non vi racconto nulla. Capito? Questa è privacy. È privacy. Privacy forte, non si rispetta. Si rispetta anche parecchio. Proprio. Guardiamo la nostra archiviazione per esserne più sicuri, mancano sì, sui 12 minuti. E allora, è tempo di previsioni. Di previsioni e... Tempo di previsioni con il nostro amico Rob dell'Internazionale, l'unico oroscopo che vale la pena di leggere perché A, è scritto bene, B, perché è vero. È ganso. No, è proprio, cioè, ci piglia. Vai. Cioè, sentiamo. Lui proprio ci le cose te le dice e ti accadono veramente. Annaccia. Non è mica come Fox, quelle cose lì, branco. Fox. Stasera questo... è un bombardamento psicologico. Sì. Vediamo che ci succede. No, senti, io l'ho sbicciato prima, anche se me l'ha mandato roba adesso per meglio, non un secondo fa. Però l'ho sbicciato. Calzo. Ti dirò. Calzo. Ti sentirò. Calzo. Calzo. Calzo. Calzo. Vabbè, non dire. È una L, non è una doppia Z. Calcio. Io, perché tu mi, vabbè, volevo dire una cosa sentimentale, ma esce male, cioè, mi calzi a pennello lo sei emotivamente, non in quel senso. O il carmelitano calcio. Il carmelitano calcio. Senti, no, questo oroscopo ti dirà delle cose serie. Vai. E ti darà tutta la spinta. E... allora, innanzitutto, aspetta, c'è il mio amico Paolo. Ciao Paolo, è arrivato, è online. E salutiamo anche. Se ne vanno tutti, ma che palle, no, cioè non è che state in Italia, no, già che... è la fuga dei cervelli, la fuga di qua, state di qui, su. Chiudiamo, gemelli. Vai. E quindi becchiamo Strennik, Calzolai, Sandrini e Liv. Poi facciamo una piccola parentesi per... No, io vorrei dire una cosa, allora, non vorrei raccontare questo momento. E anche dirvi dov'è che siamo stasera. Cioè in questo momento Sandrini sta dormendo. Sta dormendo in radio, in diretta. Lui sta dormendo. E non nemmeno si sveglia. E vi dico dove siamo stasera. Stasera siamo nei sogni di Sandrini. E siamo anche quello che pensa Sandrini. Pensate in che condizioni siamo. E siamo anche nei sogni di Risma e compagni che stanno sul letto sbragati, messaggino, vi ascoltiamo dal letto sotto al piumone, che bello. Cioè la dimensione familiare di Radio Catrame. Cioè la sera dopo la giornata di lavoro sotto al piumone ti senti calzolare, ma vai, una figata. Oh. Cioè io pagherei, ti prego. Cioè ci ascoltano mentre sono lì lì. No, non mentre, cioè durante la telegrama non si fa niente, si ascolta in silenzio. Tu lo sai che si potrebbe far successo? Cioè se si fa una trasmissione un po' spinterella, un po' accattivante, che ti... Accattivante. Comunque, sì. No, vabbè. Però stasera, ragazzi, siamo tutti il prodotto onirico di Sandrini. Okay. Siamo evocato. Sono la donna dei sogni di Sandrini. Siamo frammenti a giro per questa testa meravigliosa di Mauro Sandrini. Siamo immersi nelle sue reti neurali. E lui ci sta pensando. Non esistiamo. Non esistiamo. Se non nelle sue sinapsi. Sì, uno, potremmo fare un nuovo gruppo nei quattro. Lo stato REM. Quindi siamo noi. Vabbè, oroscopo. Dai. Oroscopo. Gemelli. REM, sì, lo stato REM. Non siamo veramente. Oroscopo. Gemelli. Mentre mi trovavo in macchina, dietro a un pick-up, ho letto un adesivo insolito. C'era scritto surf in Colorado, ma il Colorado è a più di 1000 chilometri dall'oceano. De. Al semaforo successivo mi sono avvicinato e sono riuscito a leggere la scritta in piccolo, con un kayak, la canoa, sì, basta un fiume, non serve l'oceano per cavalcare le onde. Che messaggio perfetto per i miei lettori dei gemelli. Ho pensato, in effetti, in questo momento, caro calzolai, me l'ha scritto lui proprio, caro calzolai, c'è scritto, giuro. www.internazionale.it. Lui c'è scritto, caro calzolai, stai attraversando una fase in cui non hai bisogno di un oceano per fare surf. In realtà non hai bisogno neanche di un aereo per volare, di un'anima gemella per raggiungere l'estasi romantica, né dei soldi per essere ricco. La forza della tua immaginazione e la tua intraprendenza sono al culmine. Scusate, ma cosa abbiamo letto prima? Che il viaggio è nella testa. Ah, quindi, calzo, devi stare a casa tua. Cioè, io te lo dico in tutto, basta. Ma guarda te, Sandrini, che doveva andare a pensare stasera. Cioè, ma mi sta facendo un bombardamento psicologico. Freddy Sandrini Krueger, The Nightmare is here. Senti. E ora l'altro pezzo di oroscopo. Noi non li leggiamo tutti e 12 perché sono pallosi, no, leggiamo solo quegli amici nostri. Quindi Ariete che sei, che è la nostra Erika. E poi facciamo scusami Erika, non me ne volere, ma io farei prima un regalo a Cazzo, dobbiamo fare. Sì, però. No. Acquario. Capito? Se ne dai tutte le energie, va uno, poi due. Dal 20 gennaio al 18 febbraio becchiamo il compleanno di Risma, di Matt, domani il compleanno del mitico Cannellone. E quindi tutta questa Cannella! Acquario, Risma e Company, oggi pomeriggio, mentre attraversavo in bicicletta il quartiere tranquillo della mia città, ho visto due ragazze che trafficavano con un cancello. Si stavano innervosendo perché non riuscivano ad aprirlo. Una di loro l'ho preso a calci, l'altra ha cercato, senza successo, di scavalcarlo per aprirlo dall'altra parte. Alla fine la ragazza più giovane ha infilato una mano ed è riuscita a sbloccarlo. Il cancello si è aperto, ce l'ho fatta, ha gridato saltando su e giù con aria trionfante. Prevedo che presto esprimerai queste parole, proverai la stessa emozione anche tu, quando finalmente aprirai una porta metaforica che finora è rimasta chiusa. Ok, ma questo non è un oroscopo, ragazzi. Questo è molto bello. Molto bello. E un secondo solo, la nostra Ariete, per la nostra Erika. Grazie. Ti invito a passare il 2008 trasformando tutte le tue idee abbastanza buone, ma non del tutto sviluppate, in pochi concetti brillanti e ben formulati. Anzi, dato che ci sei, sciogli le tue centinaia di desideri insulsi e fondili in tre desideri trascinanti. Questo è l'anno dello scopo preciso, Ariete. Noto anche come l'anno della focalizzazione laser e della chiarezza intensa. Preparati psicologicamente a una grande campagna per eliminare il superfluo e per far emergere l'essenza. Ma parla te, Sandrini, che ora uso così. È impegnativo. Sociologo numero 2, sentite questa chitarra pizzicata da... E questo la producono le reti neurali, le connessioni sinaptiche del nostro sociologo numero 1, 2, 2, 3. Non sto pensando più, chi sono io? C'è Sandrini che sta entrando nel sogno, nel corpo e nella mente di Calzolari. Ebbene sì, signore e signori, radio, topo, web spettatori... Chi vi parla stasera è Sandrini, che è come un ninja e vuole vivere nell'ombra. E allora addentriamoci anche musicalmente dentro il pensiero sandrinico. Thank you. dell'altro su Radio Catrame 19. He broke from them, and then he broke from himself. I'd never seen a man so broken up and ripped apart. I've seen horrors, horrors that you've seen. But you have no right to call me a murderer. You have a right to kill me. Mazzarelle, timballo, arrosticini, tacchino alla canzanese, scrippellembus, fregnacce. La pecora alla Callara, maccheroncina alla Izzarra, pecorino abruzzese, pizza dolce, i arancionetti, le sfogliatelle, il tutto bagnato con Montepulciano d'Abruzzo, gazzosa, Centerpa, la Cinziana. E Ginepi. Rebozo.com. Da qui abbiamo preso "Sono un ninja e vorrei vivere nell'ombra". Anzi no, ve lo dico meglio, voglio essere un ninja e vivere nell'ombra di Bebe Rebozo. E da beberebozo.com abbiamo letto questa sfilza culinaria enogastronomica, tutto quanto nella mente di Sandrini. Sì, esatto. E beberebozo.com, se volete saperne di più, poi magari ve ne parliamo meglio se abbiamo occasione, ci piacerebbe parlarne anche con loro, ma vedremo. Drink a Pint of Blue Jay Day, sempre dei Milaver che ci accompagnano come terreno sonoro in ogni puntata da più di un anno a questa parte, no, da un anno a questa parte, super giù da un anno a questa parte. Noi stiamo avviandoci in questo finale di puntata della cui abbiamo parlato della commessa frustrata, abbiamo parlato di avventure che esistono, che non esistono, di piccoli manuali di perfetti avventurieri. E abbiamo parlato la mente di Sandrini dormiente. Voi siete tutti quanti, anche voi che ascolterete nel podcast fra 3250 anni circa, sarete tutti figli minori di questi nostri pensieri di stasera. Vero? Vero o falso? Chi lo sa? Chi lo sa? Noi lasciamo la parola ad Erika, che ci riprende le parole di Pierre McCorlan, e ne approfittiamo per darvi la buonanotte. Buonanotte! Sentite che voci vellutate che vengono a questo. Buonanotte. Sì. Facciamo una buonanotte. Buonanotte. Che ce n'è bisogno per tutti, anche in portoghese. Dillo in portoghese. Dillo bene. Sì, va bene. Then I realized that they are stronger than me, because they could stand up. These were not monsters. These were men, praying cadres. These men who fought with their hearts, who had families and had children, who were filled with love. That they had the strength. Visions of those men. nostro avventuriero era provvisto di tutti i consigli utili a sfruttare con proficui vantaggi il soggetto di cui sarà il glorioso ispiratore. Perché è proprio questo il punto capitale, l'apoteosi dell'esistenza di un avventuriero passivo, la formazione di un avventuriero attivo destinato a commettere tutte le sciocchezze che il suo mentore gli suggerirà. Parla come scrivi il numero 26, vagone numero 26 appena andato via dalla stazione, vi saluta, sono le 23:25 di... quante ne abbiamo oggi? 24? 23 gennaio 2008, Strelnik. Il calzolai dai vagonacci mentali dei sogni di Mauro Sandrini. Erika. E tutto il vagone vi saluta. Ciao Enz. Ciao Enz, anche stasera non abbiamo evitato di parlare di te, però adesso in finale vi lasciamo con una chicca, l'ultima canzone appena prelevata dal MySpace di Cagasonic. E siccome abbiamo parlato di commessa frustrata, abbiamo parlato di gigantesche scritte coppa, abbiamo parlato di avventurieri all'interno dei supermercati, ci pare utile e giusto finire con un cittadino consumatore, l'ultima fatica, si fa per dire, del grande Cagasonic. Vai Enz, azzeccala come sapevi fare una volta prima delirium tremens.